Ciao a tutte le compagne e compagni di Onda Rossa. Io sono Roberta, sono attivista femminista e siamo da Città del Messico con. Francesca, io sto in Messico da 40 anni. Con Elena, io sono di qua del Messico, amica e compagna del Copin, dei compas di Honduras e di tutto il mondo. Siamo qui, diciamo, a Città del Messico perché stiamo un po' preoccupate. Siamo preoccupate per la situazione dell'Honduras dopo 10 anni dal colpo di Stato e soprattutto perché è ancora in sospeso il giudizio di uno dei processi più importanti attualmente che riguardano una femminista, compagna, difensora dei diritti dei popoli indigeni, che è Berta Cáceres, e nello specifico il processo a David Castillo, che è considerato l'assassino intellettuale di Berta. David Castillo è ancora l'unica persona che appunto non ha ricevuto un giudizio perché è presidente amministrativo e anche presidente di una delle due imprese azioniste di DESA. DESA è l'impresa di Desarrollo Energetico, che è stata la controparte honduregna dell'impresa Sinohydro cinese. Entrambe portavano avanti il cantiere sul rio Gualcarque. E quello che è successo, appunto, immagino sia di tutti lo sappiamo, però lo ripetiamo: il cantiere è stato chiuso, le banche nordeuropee che avevano fatto una inversione, un investimento Un investimento. economico in questo cantiere si sono ritirate e si è ritirata ovviamente anche l'impresa cinese. Quello che è successo appunto è stato il fallimento di questa operazione, di questo cantiere e l'impresa honduregna DESA si è vendicata sulla compagna, su Berta. L'omicidio di Berta è stata una. Appunto, è stata una venganza, una vendetta, però è stato diciamo, la chiusura di questo cantiere è stato il riconoscimento di quella che è la dichiarazione o il convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a favore dei diritti dei popoli indigeni e tribali del 1989. E quindi ad oggi. Diciamo che il giudizio a David Castillo purtroppo non si è ancora concluso e quindi siamo ancora in attesa di vedere cosa sta succedendo. E credo che è molto importante vedere la situazione del processo di Berta, cioè il processo contro gli omicidi tanto intellettuali che sarebbe David Castillo, come materiali, che sono le 7 persone che sono state condannate a novembre del 2018, tra cui Sergio Rodriguez Orellana, che era il gerente sociale, ambientale e di comunicazioni di DESA, di Desarrollos Energético SA, questa impresa, questa azienda che ovviamente stava distruggendo l'ambiente del popolo Lenca, il territorio sacro del popolo Lenca, toccando il fiume che più gli importava. Questa situazione, questa confusione nel giudizio contro Berta in questo momento, dal novembre del 2018 adesso, in cui si è allontanata la famiglia di Berta dal tribunale, adducendo che sono comunque parte del COPIN, cioè della Coordinazione Civica dei Popoli Indigeni dell'Honduras, di cui Berta era stata una cofondatrice nel 1993. Adducendo che loro non credono nella legalità dell'Honduras, è comunque ovviamente un processo che ha a che vedere con gli ultimi 10 anni della storia dell'Honduras, se non è che con gli ultimi 50 anni della storia dell'Honduras, se non è che negli ultimi 100 anni della storia dell'Honduras. L'Honduras, secondo Human Rights Watch, è uno dei paesi, non è solo il secondo paese più povero dell'America, ma è anche uno dei paesi più violenti e dove l'uso della forza letale da parte dei membri della Polizia Nazionale che costituisce un problema cronico. Cioè la violenza in Honduras è cronica e questa violenza che ha portato l'Honduras ad essere il paese da cui sono uscite le truppe nel 1954 per invadere la Guatemala democratica, che è stato praticamente il portaerei degli Stati Uniti durante la rivoluzione nicaraguense, perché dall'Honduras entravano e uscivano le truppe della Contra, che è stato uno dei paesi che ha distrutto, annichilato completamente le forze rivoluzionarie nella decada degli Ottanta, per cui apparentemente era uno dei paesi più pacifici dell'America centrale, è in realtà un paese dove la polizia è abituata agli omicidi arbitrari, alla tortura, a mettere in prigione chi mette in pericolo il progetto di distruzione ambientale, di controllo sulla popolazione e di minacce sulla stessa popolazione, che passano per gli omicidi e le minacce ai giornalisti indipendenti di questo paese. Inoltre si sa che in Honduras, perlomeno dal colpo di Stato del 28 giugno del 2009, quando il presidente democratico dell'Honduras, Miguel Manuel Zelaya, Mel Zelaya, fu svegliato all'alba nel palazzo presidenziale e messo in pigiama su di un aereo per essere spedito ed espulso verso il Costa Rica. Quel colpo di Stato non era qualsiasi colpo di Stato, erano 20 anni che il sistema neoliberale, che era cresciuto dopo la caduta del muro di Berlino, non era nato lì, ma era cresciuto, si era inoltre impoderato, diceva che era l'unica possibilità di di governo mondiale. Beh, il sistema neoliberale aveva detto durante 20 anni che, così com'era, innecessario una forza socialista, comunista, alternativa al mondo capitalista, era anche innecessaria la forza dei colpi di Stato e delle dittature. Per cui se 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino si deve fare un colpo di Stato, si produce questo, e precisamente nell'Honduras, che era uno di questi stati bananieri, diciamo, stati governi bananieri, dove gli Stati Uniti avevano sempre avuto una grossa influenza e anche una grossa influenza non solo militare, ma di usare l'Honduras come una specie di terra di prova, di terra dove saggiare in qualche modo delle proposte impositive di governo. E per cui il colpo di Stato, anche se è diretto dal capo dello Stato Maggiore congiunto, che si chiamava Romeo Orlando Vázquez, era comunque stata decisa dal Senato. E questo è molto importante, perché dal colpo di Stato in Honduras nascono altri colpi di Stato o intenti di colpo di Stato, come quelli che subito dopo successe in Paraguay, come quello che cercarono a fare al presidente Correa in Ecuador, cioè colpi di Stato su paesi non considerati centrali e fortissimi, però dove si stava provando lentamente ad entrare in una dinamica più democratica di mercato. Questo colpo di Stato fu realmente affrontato durante mesi e mesi e mesi. Le persone in Honduras si sono manifestate ogni mattina alle 9 contro il colpo di Stato, E allora si è anche lì saggiato come far sì che da un colpo di Stato si può ritornare immediatamente alla democrazia. Ed in novembre l'Honduras indisse delle elezioni che il Copin, che Berta, che le persone, che le femministe dissero non possono essere democratiche, perché non si possono fare delle elezioni considerando che ci sia una libertà di scelta quando le strade sono pattugliate da una polizia militarizzata. Comunque invece le elezioni si indissero, si fecero e si disse che si era tornati alla democrazia. Durante 10 anni questo ritorno alla democrazia è stato smentito dal fatto che l'Honduras è diventato il paese più pericoloso del mondo contro le persone che difendono i diritti umani e i diritti ambientali. Berta Cáceres, la notte tra il 2 e il 3 marzo del 2016, è stata assassinata come più di 100 difensori ambientali in Honduras, tra cui alcuni dei suoi compagni del COPIN, di Tomás García, chissà il più famoso di tutti, nel 2013, e poi dopo molti altri, tra cui bambini di 14 anni anche. E credo che è molto importante sapere che oggi l'Honduras è in fiamme, letteralmente in fiamme. In questo momento ci sono dei movimenti di medici e di maestri, maestre e mediche, che stanno esigendo la salute e l'educazione pubblica, che sono stati bombardati da elicotteri che hanno buttato sulle aule dell'Università Nazionale bombe lacrimogene, e che nella Guan, che è una delle zone agricole più violentate dell'Honduras, le bombe non erano precisamente lacrimogene quelle che si buttavano giù. Elena, tu... La nostra compagna Berta Cáceres, una leader indigena lenca, femminista, ambientalista, fondatrice del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, nel 1993. Compagna che ha ricevuto il premio medioambientale Goldman nel 2015 per la sua resistenza al modello estrattivista e per la difesa dei diritti umani del popolo lenca, anche per, come diceva la compagna Roberta prima, perché la lotta del COPIN e di Berta ha fatto l'espulsione di Sinoidro e ha mandato indietro la costruzione della idroelettrica. È stata assassinata il 2 marzo del 2016, essendo coordinatrice generale del COPIN, mentre si svolgeva una forte lotta contro il progetto Aguasarca. 10 anni fa, come diceva anche Francesca, Berta è stata una delle figure che ha dato più forza al movimento femminista e dei popoli dell'Honduras contro il colpo di Stato nel 2009. Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres era il lema che si strillava per le strade. Sì, cioè né colpi alle donne né colpi militari. Né colpi militari. O di Stato, no? Perché... O colpi di Stato, uh-huh. Sì. Dopo questo, diciamo, dopo questa analisi possiamo tranquillamente prendere tutti gli elementi che Elena e Francesca ci hanno dato per affermare che per come si sta conducendo il processo, ovviamente è un processo politico, e quello che vogliamo affermare è la facilità con cui si sta ricacciando una leader femminista, un attivista, in un luogo dove le donne sono sempre state confinate, che è il luogo delle relazioni intime. Quello che si sta cercando di fare è di delegittimare la figura politica di Berta Cáceres attraverso l'utilizzo di questa figura, che è appunto David Castillo, che era una spia, era stato educato negli Stati Uniti, quindi sapeva perfettamente politicamente che cos'è che stava facendo. E, si tenta di attribuire questo assassino, questa uccisione, come se fosse all'ambito delle relazioni intime, adducendo che ci potrebbe essere una possibile amicizia tra queste persone, lasciandolo lì, diciamo, lasciandolo intendere, e invece politicamente per noi è importante significare l'omicidio di Berta Cáceres come un femminicidio di Stato. Il femminicidio di Stato ha due caratteristiche: la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, attraverso il caso di Campo Algodonero, ha dichiarato che il femminicidio di Stato può essere, la responsabilità dello Stato è per diretta attuazione o per omissione. Nell'omicidio di Berta Cáceres possiamo vedere che lo Stato honduregno ha difeso chi ha ucciso i mandanti dell'omicidio di Berta Cáceres, e ha mancato la difesa della popolazione indigena e nello specifico di Berta, perché ne è risultata assassinata. Per cui non, quello che si sta tentando di fare è ricacciarci all'interno di un ambito privato, all'interno di una figura emozionale, di una figura che si lascia trascinare dalle relazioni intime, dalle relazioni passionali, come se non ci fosse altro motivo per il quale le donne possono essere ricordate. E invece sappiamo che, essendo un'attivista, una compagna, una femminista, una difensora dei diritti umani, Berta Cáceres è stata uccisa per questo. Quindi è un femminicidio politico, un femminicidio di Stato, e quello che ci interessa sottolineare è delegittimare questa virata politica che lo Stato honduregno sta tentando di fare attraverso il processo a David Castillo. Sul processo a David Castillo ci sono varie cose da dire, per esempio che l'impresa DESA e i suoi principali azionisti, durante il processo contro gli autori materiali e intellettuali dell'omicidio di Berta Cáceres, hanno contrattato degli avvocati internazionali, delle agenzie di pubblicità e anche un grande buffette, un grande impresa internazionale che si chiama Amsterdam e Partners. In Italia forse sappiamo che è la stessa gruppo di avvocati che ha difeso Erdogan quando stava organizzando il suo autogolpe di Stato. E perché ha contrattato tutte queste persone? Cioè, proprio per fare in modo di scolpare, di togliere la colpa su Sergio Rodriguez Orellana, che era il gerente sociale e ambientale di comunicazioni di DESA, condannato a novembre del 2018 con altre 7 persone, e soprattutto di difendere nel giudizio, nella sua tappa preliminare, a David Castillo, presidente coordinatore dell'omicidio e accusato anche di proporzionare tutta la logistica alla possibilità di questo assassinio. Amsterdam e Partner ha portato avanti una serie di fatti, tra cui dittamini confusi che mescolano descrizione dei fatti con degli elementi analitici, una mancanza di esposizione della metodologia di ricerca, tutto questo per svincolare David Castillo dalle persone che sono state già condannate per l'omicidio di Berta. Però inoltre, per far sì che tutti i dati che invece sono stati ricavati dalle organizzazioni di diritti umani che coadiuvano l'appoggio alla famiglia di Berta e al Coppin, hanno trovato, tra cui una rete telefonica per far sì che non si potesse giungere facilmente a una persona che negli ultimi 6 mesi aveva fatto più di 70.000 chiamate per coordinare l'intento di omicidio prima, quello del 5 febbraio, e l'omicidio dopo, quello del 2 marzo di Berta. E c'è stato proprio un atteggiamento di occultamento proattivo del ciclo criminale che porta la figura di David Castillo. Berta era una persona così importante che, come mi vuol far dire anche Elena, che ora lo dirà, è ancora viva nella memoria e nell'organizzazione del COPIN. Però inoltre Berta, proprio per questo suo atteggiamento, aveva già sofferto 33 tentativi di assassinato. E tra minacce e tentativi di assassinato, per cui oggi cercare a dire che lei è stata assassinata nell'ambito di relazioni private e che David Castillo non poteva essere l'assassino, il mandante, perché era riuscito a stabilire una relazione di amicizia, falsa ovviamente, con Berta, è particolarmente preoccupante, perché dimostrerebbe proprio anche un cammino per il resto di stati repressori in America Latina, come lo stato colombiano, come lo stato messicano, come tutti gli stati latinoamericani neoliberali del mondo. E anche il COPIN in questo, come ricerca di giustizia, ha ripreso la figura di Berta, dando il suo nome a una proposta di legge per i diritti umani dell'Honduras, dove prevede la sospensione degli aiuti economici in materia di sicurezza, polizia e militari, da parte soprattutto dagli Stati Uniti, finché non si rispettino i diritti umani e ambientalisti dell'Honduras. E come per concludere un attimo, quello che ci interesserebbe diciamo fare con questa intervista è tracciare come un filo comune della facilità con cui vengono uccise le attiviste donne, di una, diciamo, non un minore interesse, ma una maggiore facilità da parte di uno Stato di uccidere attiviste donne e ricacciarle all'interno di una fragilità emozionale, di una relazione violenta. Non che il femminicidio nelle relazioni di intimità non abbia importanza, non abbia importanza certo politica, ma sarebbe ridurre queste attiviste a un discorso che non gli appartiene, che è fuorviante, perché le attiviste donne vengono uccise dallo Stato, sono femminicidi di Stato e lo Stato tenta di legittimarsi e delegittimare il loro lavoro politico attraverso questo cambio di semantico, di causalità, che ovviamente è una volontà politica, sminuendo le figure delle donne e soprattutto di quello che è stato e di quello che è il movimento femminista in America Latina e l'importanza tanto del tema del femminicidio come dei diritti sulla terra, dei diritti indigeni. Poco per sottolineare quello che dice Roberta, io vorrei dire come la violenza contro le donne è anche una violenza contro la loro privacità. Nel caso di Berta, che era una persona assolutamente non solo rispettata dal COPIN, dalla comunità di cui faceva parte, dal popolo Lenca e dal popolo Garifuna, con cui il popolo Lenca ha sempre avuto una relazione fortissima per la difesa dei territori indigeni honduregni, e in cui anche l'altra figura è diciamo pubblica del popolo Garifuna è una donna, è Miriam Miranda. Allora, proprio per togliere la forza a queste due dirigenti di popoli scelte e perché servono il loro popolo, si usa la loro vita privata per toglierle, per umiliarle come figure pubbliche. Per esempio, si cerca di usare la figura dell'ultimo compagno di Berta, che ovviamente era un maschilista tradizionalista di zona tradizionalmente cattolica maschilista, che può aver detto in più di un'occasione delle frasi anche poco fortunate, però che non aveva nessuna relazione con la vita pubblica di Berta e che non c'entra niente con questo assassinato di Stato. Berta è stata perseguitata da Desa, che aveva cercato di infiltrare il Copin attraverso di figure della sua sicurezza privata, e per cui defenestrare Berta pubblicitando la sua vita privata è una strategia di intelligenza militare che gli stati utilizzano contro le dirigenti donne, e che gli funziona, purtroppo gli funziona, perché ancora abbiamo una cultura da trasformare per renderci conto che come dirigenti le donne hanno le stesse responsabilità degli uomini e delle forme distinte di comportamento e di lavoro con la sua stessa comunità. E vorrei ricordare anche che la persona che è a cui si attribuisce l'autoria intellettuale dell'omicidio di Berta, Roberto David Castillo, di cui parlava proprio Roberta, è stato allenato a West Point, cioè nella scuola militare di eccellenza degli Stati Uniti in intelligenza militare, cioè era stato formato per essere una spia, e faceva parte durante un periodo della sua vita, prima di diventare questo grande inversionista, aveva fatto parte di una strategia militare congiunta tra l'Honduras e gli Stati Uniti. Tanto che poi due anni dopo l'assassinato di Berta, l'assassinio di Berta, il 3 marzo del 2018 ha cercato di fuggire dall'Honduras ed è stato detenuto all'aeroporto. E per concludere vorremmo leggervi uno dei poemi che sono stati scritti, c'è stato un concorso, 100 poesie per Berta, e il nostro compagno Nino Bonaventura ha scritto questo poema che adesso Elena vi leggerà. È stato scritto nel 2016, appunto ispirato dalla figura di Berta Cáceres. Ritratto d'amore con assassinio per Berta Cáceres. Le tue figlie sono minute. Una di esse si morde il labbro e parla con la tua voce da gigante. Eri madre ed eri figlia del tuo popolo, una combattente senza gloria, senza fortuna. Poi sono venuti gli omunculi del denaro, con assettate idrovore meccaniche. Sono venute a quantificare la vita di un popolo, a chiuderla in disumane barriere, a trasformare la vita in capitale e la morte in bene comune. La prepotenza del piombo ha potuto con te quello che non ha potuto la strisciante lascivia del denaro. Ascoltate, hanno assassinato Berta, hanno assassinato un sorriso che si scagliava contro il tempo. Ascoltate, hanno assassinato una di noi, ed è come se in un solo colpo avessero estirpato un'intera foresta, come se in un lampo avessero dimezzato una montagna. Avessero potuto incendiare i fiumi e i mari. Ascoltate, hanno assassinato Berta, e l'acqua or schizza furibonda dai propri argini. Per te scrivo queste righe, mai conosciuta, per te intravista nella figura sfocata di tua figlia, nelle lacrime di un'amica. Chiedo a te, Berta, di poter accarezzare il tuo nome, la tua forza, per essere un po' anche io figlio tuo. e madre, perché in me nasca l'alba di una nuova alba, perché il tuo sorriso sia il marchio inconfondibile che smentisca la rassegnazione dei pessimisti, degli spossati. Nino Bonaventura. Un saluto alle compagne e ai compagni di Onda Rossa e da Città del Messico, grazie per lo spazio. Grazie, ciao. Compagne e compagne.